saremo, di medaglia che mi serpi ne saremo. Scaglia, scaglia, pur la parola esalendo, muovi il mio cervotto. Di medaglia che mi serpi ne saremo, scaglia pur la parola esalendo, scaglia pur la parola esalendo, muovi il mio cervotto rumor, muovi il mio cervotto rumor. Animando la